fatto di 50 euro diventa un aumento di costi, di burocrazia, di controlli, e soprattutto non vogliamo mica pensare che risolviamo il problema dell'evasione facendo quel tipo di scelta lì, perché allora prendiamo i cittadini, ma soprattutto gli imprenditori, qualche volta per farli belli diciamo sono imprenditori, in realtà ci considerano tutti dei ladri di polli. No, è un fatto che da un punto di vista umano e anche etico grida vendetta, non lo potremo mai accettare. Ecco, io devo dire che prendo l'impegno con Massimo Zanon, se quel giorno arriva e ce lo fanno per decreto una soglia di così tipo di questo basso, credo che davvero bisogna andare nelle piazze civilmente, legalitariamente, non sfasciare nulla, non ledere alcun altro diritto, ma urlare contro questa malintesa concezione virtuistica di uno Stato che prende per sé, pretende per sé. A quel punto genererebbe redditi per altri, espropriando margini di libertà crescenti per chi addita come violatori della legge, quando è lui il primo a violarlo, lo Stato, ladro e stupido per quello che mi riguarda.